Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, vi segnalo il ritorno di un grande classico dell'economia del Novecento e del pensiero liberale dello scorso secolo, ma anche dei tempi attuali, e cioè Capitalismo e Libertà, il libro di Milton Friedman, ripubblicato da IBL Libri, 298 pagine, 24 euro, e tradotto da David Perazzoni. Questo è sicuramente uno dei libri più fortunati di Milton Friedman, il premio Nobel per l'economia 1976, che fu il protagonista della svolta intellettuale che portò poi alle rivoluzioni politiche di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Questo libro è del 1962 ed ha avuto una storia contrastata nel nostro paese, perché qui fu tradotto solo in forma semiclandestina, addirittura pudicamente il titolo venne censurato e diventò in italiano Efficienza economica e libertà, perché all'epoca parlare di capitalismo era un peccato capitale. Questo in effetti è un libro in cui Friedman illustra la sua foga antistatalista, la sua fiducia nel mercato, la sua fede nell'individualismo. Il libro rappresenta certamente un caposaldo del pensiero neoliberale. È un libro fortemente divulgativo, perché ricavato da una serie di conferenze che furono tenute nel lontano 1956, ma che ancora sono molto attuali e meritevoli di riflessione e di dibattito. In esse infatti sono avanzate molte proposte che tengono ancora banco nel dibattito politico ed economico. La prefazione del volume è di Antonio Martino, che di Friedman è stato un allievo, uno dei pochi allievi italiani, e che ora risponde alle nostre domande. Buongiorno ad Antonio Martino. Buongiorno a lei. Professor Martino, nella sua prefazione lei insiste sull'attualità di questo scritto di Milton Friedman. In effetti, lo stesso economista conclude il suo libro scrivendo che la mentalità statalista è ancora viva e vegeta, esiste ancora la tendenza a ritenere che qualsiasi intervento pubblico sia auspicabile, ad attribuire tutti i mali al mercato e a giudicare ogni nuova proposta di ampliamento del controllo statale nella sua formulazione ideale, eccetera, eccetera. Insomma, mi pare in effetti che questo clima neostatalista stia tornando di moda. Tenga presente anzitutto che questi scritti sono degli anni 50 e che allora la mentalità statalista era enormemente più forte che adesso. Ancora era vivo il mito della pianificazione centrale, si riteneva che l'Unione Sovietica fosse un successo, era ancora l'idea che lo Stato imprenditore fosse più bravo dei privati, quindi nazionalizzazioni, non c'erano stati né Reagan né la Thatcher, quindi allora questo pessimismo della chiusa di Friedman era giustificato. Oggi sta tornando di moda, perché? Perché dopo 30 anni in cui le politiche liberali adottate un po' da tutti i paesi del mondo hanno prodotto il trentennio più prospero e più dinamico nella storia dell'umanità, e questo ovviamente ha costituito un motivo di cruccio per quelli che non credono nel liberalismo, ora c'è stata la crisi del 2007 e questo ha fatto rinascere la speranza negli statalisti che il liberismo fosse morto, fosse finito, che il pensiero di Friedman e Hayek dovesse essere consegnato alla pattumiera della storia e così via. Io non credo che abbiano ragione, perché le alternative alla libertà di mercato sono state tentate un po' ovunque e ovunque hanno prodotto risultati disastrosi. Ecco, parlando proprio della crisi finanziaria, lei nella prefazione critica Alan Greenspan perché gli attribuisce le responsabilità o alcune responsabilità di questa crisi, eppure Greenspan era anche lui. Ma non c'è dubbio, Greenspan era senz'altro senz'altro per molti versi uno dei migliori governatori della Fed. Però per un triennio, per tenere bassi i tassi di interesse e non ostacolare la ripresa, ha condotto una politica di espansione monetaria che sui prezzi di beni ha avuto pochissimo effetto per via delle importazioni. Le importazioni hanno fatto, diciamo così, da calmiere. L'acquisto di beni è stato soddisfatto da maggiori importazioni e quindi il deficit commerciale. E il resto dell'espansione monetaria si è riversato sul mercato immobiliare, contribuendo ad accrescere, a aggravare la bolla immobiliare, e sul mercato azionario facendo aumentare il corso delle azioni. Quando i tassi di interesse hanno cominciato ad aumentare, il prezzo delle case a diminuire, è crollato il castello di carta, cioè si è sgonfiata sia la bolla immobiliare sia la bolla azionaria. Tornando allo statalismo, nel suo libro Milton Friedman difende il ruolo del governo, dice che lo Stato anarchico, la libertà assoluta è impossibile, per quanto attraente possa apparire dal punto di vista filosofico, l'anarchia è un sistema impossibile da realizzare. Ecco, come vedeva il ruolo del governo Milton Friedman? Lui sosteneva che alcune cose non possono che essere fatte dal governo. In questo si distingueva nettamente sia da suo figlio David, perché il figlio David viceversa è un anarcocapitalista, infatti nel suo libro The Machinery of Freedom in nota dice per queste stesse idee espresse in tono molto più moderato vedi Milton Friedman, ma si distingueva anche da tutti i libertari, infatti lui è considerato uno statalista, Milton Friedman, da molti libertari che non vorrebbero nemmeno il buono scuola, che era una delle sue battaglie, eccetera. In realtà Friedman ha sempre orgogliosamente difeso l'etichetta di liberale. In America quelli che credono alla libertà economica vengono chiamati conservatori. Lui, seguendo Hayek, non si è mai chiamato conservatore. Hayek, lei ricorderà certamente, dice il conservatore è condannato a essere trascinato in una direzione che non considera auspicabile dagli altri, invece il liberale deve sapere indicare la direzione. Poi è vero che Milton Friedman è liberale e non conservatore, basti pensare alle sue posizioni sui diritti civili, era favorevole alla liberalizzazione della droga, ha scritto al riguardo pagine che meritano di essere lette ancora oggi. Ecco, a proposito dell'intervento dello Stato e del ruolo dello Stato, molte pagine di questo libro e di tanti altri di Milton Friedman sono dedicate al nuovo welfare. Quali sono le intuizioni, secondo lei, più attuali di queste pagine di Friedman sul welfare? Lei ricorderà che io tradussi in italiano un lavoro dell'OCSE sull'imposta negativa sul reddito. L'imposta negativa sul reddito è senz'altro la proposta più rivoluzionaria di Friedman per evitare i costi burocratici del welfare state e allo stesso tempo garantire ai meno abbienti la possibilità di accedere, la libertà di ingresso ai servizi fondamentali come la scuola, come la sanità, come la casa e così via. Si tratterebbe in pratica, invece di non far pagare quelli che hanno un reddito inferiore al minimo, di garantirgli una percentuale della differenza tra il reddito minimo e il reddito garantito. Quest'idea rivoluzionaria l'OCSE la considerò impraticabile. Io allora ero ancora dell'idea che fosse praticabile. Ho letto poi un saggio abbastanza recente, pubblicato da un economista della George Mason University, il quale dimostra un sistema di imposta negativa sul reddito, se generoso, creerebbe una classe di persone permanentemente dipendenti dall'imposta negativa sul reddito, cioè non avrebbero incentivo a cercare di uscire da quel livello di reddito perché perderebbero molto più di quanto potrebbero guadagnare. La cosa è molto complessa, però la proposta merita di essere ancora studiata bene. E in secondo luogo dimostra che Friedman conservatore certamente non era, perché questa è una cosa assolutamente radicale. Senta, lei è stato uno dei pochi allievi italiani di Friedman. Non si meravigliava Friedman di essere così poco ascoltato in Italia e in genere in Europa? Ma io le confesso che l'ho conosciuto nell'ottobre del 66 e sono stato suo amico fino alla sua morte nell'agosto del 2006, quindi siamo stati amici per 40 anni. Lui è venuto anche in Italia, non capiva la politica italiana come molti americani, del resto la cosa non stupisce perché è spesso incomprensibile persino per noi, e il fatto che il suo pensiero avesse difficoltà a entrare nell'Europa continentale non lo preoccupava, perché lui era riuscito persino ad avere successo in Cina. Quando lui andò in Cina gli dissero che avevano tradotto un suo libro ma che non gli potevano pagare il diritto d'autore. Lui rispose: d'accordo, io non credo nel diritto d'autore. Bene, grazie ad Antonio Martino. Grazie a lei e molti auguri. Alcune intuizioni di Milton Friedman sono riprese nel libro L'economia della proibizione di Mark Thornton, un economista libertario americano, e pubblicato da Liberi Libri. Il libro, 260 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Giovanni Giri. I divieti sono sempre più diffusi, è vietato naturalmente l'uso e il consumo di droga, anche l'alcol diventa sempre più difficile, la velocità, insomma, viviamo in un'epoca di sempre maggiori divieti. L'autore considera le giustificazioni sociali, giuridiche ed economiche economiche alla base delle politiche proibizioniste, in particolare applicate al caso della droga, e ne dimostra l'inefficacia, anzi spesso la dannosità, che si manifesta nell'aumento del crimine organizzato e della corruzione, e quindi auspica la fine delle politiche abrogazioniste e invoca una soluzione di libero mercato. Una tesi naturalmente forte, discutibile, ma che merita di essere conosciuta per affrontare un tema molto attuale sul quale spesso i luoghi comuni trionfano. Il libro è particolarmente attuale perché, come forse saprete, il 2 novembre, che è un'importante giornata elettorale americana di cui fra poco riparleremo, in California si voterà in un referendum proprio sulla legalizzazione della marijuana per chi ha più di 21 anni. È un quesito che sta suscitando un grande dibattito in tutto il paese. Infatti ci sono altri 8 stati che aspettano un po' questo risultato, pronti a seguire l'esempio di liberalizzare l'uso delle droghe leggere. Il governo federale è contrario, lo ha detto lo stesso presidente Obama, e ci sono prese di posizione molto significative. Per esempio il famoso e ricchissimo finanziere Soros è molto favorevole a questa posizione, ha dato un bel po' di quattrini a favore del referendum, mentre altre forze, per esempio la lobby delle sigarette, manifestano tutta la loro contrarietà a questa eventuale decisione. Un altro libro insolito sull'economia è quella di un ex economista che oggi è diventata giornalista di Le Monde, Florence Noiville, di cui esce Ho studiato economia e me ne pento, è pubblicato da Bollati Boringhieri, 92 pagine, 10 euro, tradotto da Maddalena Togliani. Lei esce diplomata da una delle più prestigiose grande école della Francia, ma oggi è assai critica con gli studi che ha fatto e con le degenerazioni provocate soprattutto dalla finanza e dal marketing all'economia. L'autrice critica le perversioni derivanti dall'applicazione del principio della massimizzazione del profitto e, insomma, siamo dinanzi a un'invettiva politicamente molto corretta e molto moralistica, che naturalmente dice poi poco su come soddisfare i bisogni di miliardi di persone nel mondo che non sono tutti indotti dalla pubblicità. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Questo lungo weekend novembrino ci porterà a una giornata particolare, quello del 2 novembre, in cui, come tutti ricorderete, celebriamo i nostri defunti, e vi propongo in questa occasione un libro di Giuseppe Dino Baldi, Morti favolosi degli antichi, pubblicato da Quodlibet, 392 pagine, 16 euro. L'autore è uno studioso della tradizione classica e ci dà qui una carrellata di morti celebri ed esemplari di grandi personaggi dell'antichità, da Omero ed Esiodo fino a Pitagora, passando da alcune celeberrime come quelle di Socrate o di Giulio Cesare. Il momento del distacco per gli antichi e per chi lo narrava rappresentava la conclusione, il coronamento di una vita, e quindi doveva riassumere e simboleggiare quella vita. E se uno era stato bravo e illustre durante la sua esistenza, la sua morte doveva essere esemplare. Se invece era stato un personaggio anche discutibile, la sua dipartita doveva essere l'occasione per emendare lo svolgimento di quella stessa vita. Insomma, come dice l'autore, la biografia antica era una categoria interpretativa del reale ben distinta come fine e come mezzo dalla storiografia. Si basava su uno schema di sviluppo progressivo, all'interno del quale venivano accuratamente distribuiti e automaticamente valutati i detti e fatti memorabili relativi alla vita di quel personaggio. E infatti, aggiunge l'autore, Montaigne fu il primo, forse l'ultimo, grande ammiratore dell'arte di morire degli antichi, e pensava che per dare un giudizio su qualcuno si dovesse osservare la qualità della sua fine. E Montaigne aveva, come gli antichi, tra le sue preoccupazioni principali quella di morire bene, ovvero per lui quietamente e senza chiasso. Ma come ho ricordato prima, il 2 novembre è anche una giornata particolarmente importante per gli Stati Uniti, dove si svolgeranno le elezioni di midterm. Le prospettive non sono particolarmente tranquille per il presidente Obama, l'entusiasmo per il quale si è molto ammorbidito in questi ultimi mesi, e si aspetta anche il risultato del movimento populista che si è sviluppato in questi ultimi 2 anni, quello dei Tea Party. Per capire il fenomeno e il clima politico degli Stati Uniti in questi mesi, vi propongo un libro abbastanza controcorrente, scritto da un grande esperto della politica americana, Cesare De Carlo, editorialista del Giorno, del Carlino, della Nazione e cittadino, oltre che italiano, anche statunitense. Il libro si chiama Un tè freddo per Obama, 2 anni tra opposizione e disillusione, è pubblicato all'Università Bocconi, 228 pagine, 16 euro. Un altro libro antipatizzante per Obama, ve lo dico subito, è quello di Martino Cervo e Mattia Ferraresi, Obama, l'irresistibile ascesa di un'illusione, pubblicato da Rubbettino, 122 pagine, 10 euro. Questo è un divertente approfondito reportage su come si è costruito il mito di Obama, condito spesso questo mito da autentiche bufale, come quella sulla quale si soffermano i due autori, e sulla presunta citazione che il presidente, anzi il candidato ancora Obama, avrebbe fatto di Gioacchino da Fiore, un monaco e filosofo medievale italiano che sicuramente Obama in realtà ignora. Quella presunta citazione suscitò in Italia, presso i connazionali, presso i concittadini di Gioacchino da Fiore, presso gli filosofi e gli studiosi, entusiasmo, passione, emozione, commozione, tanto da indurre una folta delegazione del borgo calabrese di Gioacchino da Fiore a partecipare alla stessa inaugurazione di Obama. Peccato che Obama non abbia mai citato Gioacchino da Fiore, e in questo libro viene appunto puntualmente ricostruita come è nata scientificamente questa bufala, e quindi come dice Giuliano Ferrara nella sua prefazione, Cervo e Ferraresi si sono imbattuti nella lunga storia di una bufala molto opportuna che a un certo punto fa capolino nella vicenda provvidenziale di quel ragazzo di Harvard che giocava a piedi nudi con i musulmani in Indonesia. La bufala attecchisce. Attecchisce perché combacia, conclude Ferrara, con l'idea di una terza età di grazia in cui lo spirito subentra e vince la battaglia con Satana per l'estirpazione del male. Torniamo a casa nostra, a Roma, dove è in corso una mostra di Van Gogh, si intitola Campagna senza tempo, città moderna, ha luogo al Vittoriano fino al 6 febbraio, il catalogo è di Schirà, la stessa casa editrice che pubblica il libro della sorella del grande pittore Elisabeth Van Gogh, intitolato Vincent, mio fratello, 92 pagine, 15 euro, tradotto da Luca Lamberti. Lei è una figura molto appartata, molto più appartata del fratello Theo, che invece ebbe un'influenza molto importante sulla vita di Vincent. Era nata nel 1859, sappiamo molto poco, ma ci sono rimaste queste pagine che vengono tradotte per la prima volta in Italia e che rappresentano la prima testimonianza o una delle prime testimonianze scritte su Vincent Van Gogh, con episodi che, nota nella postfazione Federica Ammiraglio, furono consapevolmente anche travisati in certi casi. Non si tratta quindi di un testo scientifico, ma di una testimonianza in certi punti particolarmente toccante sulla vita, sul clima nel quale visse Van Gogh e soprattutto sul clima familiare, che ci permette quindi di avvicinarci in una chiave insolita al grande artista, di cui troviamo riprodotte anche alcune opere. Sentiamo queste righe della sorella Elisabeth Van Gogh sull'avvio della carriera del grande fratello. I genitori del pittore furono assillati da amici e parenti mossi dalle migliori intenzioni. Nella nostra società vige, ahimè, un'abitudine spiacevole. Tutti pensano di avere il diritto di giudicare gli altri, di dare consigli non richiesti, soprattutto sull'educazione dei figli. Se fosse mio figlio farei questo, farei quello. Se fossi ricco come loro, farei così, colà, eccetera. E giù a criticare l'ultima decisione presa dai genitori di Vincent. Ognuno aveva un parere, ognuno diceva la sua, ognuno era convinto che il proprio consiglio fosse il migliore. Non era giusto che un giovane di 28 anni non sapesse badare a se stesso, avrebbe dovuto essere trattato in modo diverso. Bisognava costringerlo a vestirsi bene, a essere più socievole, a non evitare la compagnia degli altri, a comportarsi in modo più consono. Come se non fosse un diritto essere se stessi, anziché cercare di assomigliare agli altri. Suo padre doveva essere più severo, oppure spedirlo in un istituto, eccetera, eccetera. Questi erano i buoni consigli. Come se i suoi genitori non avessero già sofferto abbastanza, vedendo svanire le loro speranze sotto il peso delle crescenti difficoltà finanziarie. La tecnica pittorica del figlio richiedeva molto colore, e il colore era caro. Alla loro delusione si aggiungeva il fatto che non riuscivano ad apprezzare le sue opere. Ciò che a loro piaceva, lui lo denigrava. Ciò che lui apprezzava, ai loro occhi era di cattivo gusto. In quel periodo il rapporto fra loro fu molto teso, tanto che Vincent, in preda a un momento di scoramento, scomparve attorno a Natale senza dire una parola, lasciando i genitori addolorati e in ansia. Il confettino. Oggi vi presento una nuova serie che non è fatta di veri e propri libri, e si tratta di mappe che però hanno a che fare con storie famose, nel nostro caso quella di Cappuccetto Rosso, di Marco Polo, dei Tre Porcellini, del Giro del Mondo in 80 giorni, di Alice, di Biancaneve. Si intitolano appunto Le Mille e una Mappa, questa serie, pubblicata da Giralangolo, 8,90 euro ciascuno. Sono delle cartine, da un lato troviamo la storia appunto di questi personaggi e dall'altro lato delle vere e proprie mappe che rendono visivamente il percorso del protagonista nella sua storia. Una mappa fantastica che abitua i bambini a raccapezzarsi non soltanto con le parole ma anche con le immagini e con i percorsi. E con questo ringrazio Margherita in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito è www.radio24.it, qui potete riascoltare queste e tutte le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento domenica prossima.